tra i tuoi capelli sulle reti di un porto. Verrò il sale che ti ha visto salpare. Cercami, cercami lungo un deserto di viole, come un ricordo da respirare, come un ricordo da respirare. E mi abbandonerò ai mari del tuo sapore. Solcami il corpo su orme di sabbia leggere. Bacerò la terra che ti ha visto danzare. Trovami, trovami tra le rovine del mondo, come un profumo da ricordare, come un profumo su cui dormire. E mi perderò nel chiuso silenzio degli occhi. Folta di